amici, ascoltate qua questa piccola stazione in Valdesia, Schiappa! Guardo con l'altro il mister, dai, rimani così. così, non variare niente che sto passando all'altro. Positivo, positivo, tanto stessa potenza, stessa radio, così vediamo un po' se dobbiamo dare un girettino di Smith a quella radio lì, mi piace, mi appassiona toccare quella radio, mi appassiona, e meno mai bene mi ascolti. Adesso mi senti anche dentro la cupola, no? Hola Domenico. Antonio, non stai uscendo, non stai uscendo, cambio. Ti sente il bip, però tu non esci, non stai uscendo, Antonio. Cosa stai combinando? Forse ti ruba mezzo punto, e quello lì è più, va più, vabbè che l'avevi sistemato con qualcosina di più. Ascolta, con la stessa potenza così della 48 c'è una variazione di segnale, molto, se mezzo punto glielo lasciamo, pochissimo. Diciamo che sì, l'altro eri 20 con modulazione a 20 e 30, a 30, 9 e 30, mentre invece questo qua rimane 9 e 20 più 5, dai. Allora dobbiamo aumentare di 5, dai. Non c'è problema, tu se lo porti domani sera te lo faccio avanti, non c'è problema, vediamo 5 più sulla seconda linea dello Smith, capito? Claudio! Ehi, chi è? Io Gino sono, Giuseppe, dammi un controllo come sto provando questo apparato, Antonio, e basta. Buon segnale, Giuseppe, ma la radio rimane leggermente più bassa del solito, buona tutta manetta. Va bene, dai, stiamo il giorno provando a vedere come esce. Il segnale com'è, Claudio? 9,5 qua, sulla 48, 9 più 5, Giuseppe. Ma la radio è buona, è chiara, perfetta, solo la sento leggermente più bassa, io ho capito. Sì, però stiamo provando, Claudio, con il bazooka, hai capito? Ma il viattolino? Ah, facci dentro il circolo sono. Alla grande, Giuseppe, alla grande, dai, ce l'ho davanti io, quindi non ho problemi, capito? Va bene, grazie per adesso, dai. Ehi, Giuseppe, siamo qua, no, non ci stanno problemi, fai grote. Ciao, ragazzi, rilancia Domenico a vedere dove è arrivato, che guarda un attimino anche il suo segnale, avanti Domenico. Se nella piana lì, nella fallata della cimenteria, ti ascolta. Domenico, l'hai sentito al grote? Fuori, dai, è Santiago 4, considerando che c'ho QRM a 3 e radio 2, 1, comunque riesco a tirarlo fuori, l'ho sentito. Ciao, parlo positivo, tu l'hai ascoltato dov'è? Yeah. Italia, positivo. Chi è che mi chiama? Davvero? Mi senti? Ehi, la grafia, la grave. Questo è il microfono di Luigi. Però senza l'amplificatore. Io ho fatto i collegamenti al commutatore, sta uscendo direttamente al microfono normale adesso. La radio qual è? No, la radio è una che ho io, Colt. Per trovarlo usando questo, ho fatto l'attacco alla. Ah, chiaro, quindi lo stai usando come microfono normale, dai. È buona la radio, buona. Adesso devi inserire il circuito di amplificazione. K, e adesso devo invertire col circuito di preamplificazione, sì. Ma comunque la prima cosa, la cosa importante l'ho fatta. Ah, infatti, la prima cosa è quella lì, dai. Adesso sta uscendo normale, adesso devi collegare i fili del circuito, vai. Va bene, Gabriele, va bene. Non ci sono problemi, dai priorità a quello e poi attacchi l'altra che ti ho portato. Ehi, io me lo faccio domani mattina, per adesso basta. Adesso è ora di andare a pappare e di chiudere tutta la baracca, Gabriele, dai. Va bene, no, ottima radio, come microfono normale, ottima radio, quindi la capsula funziona bene, tutto funziona bene, adesso devi collegarle la parte più importante che è quella del circuito di amplificazione e poi facciamo la prova, dai. Quello dovresti fare la prova con l'MS200, con quello che ti ho portato io, capito? Con quello lì eviti di fare modifiche contro modifiche. Lo provo con questo, poi modifico anche il tuo, perché ancora il pilota l'ho modificato, capito? Questo è già modificato col pilota per l'ala. Hai registrato un break sul binario 10, dai. Va bene, Gabri, va benissimo come normale, così come il microfono normale va benissimo. Ma dico, poi quando cambi le connessioni all'MS200, invece le connessioni Turner che gliele fai, quello lo inserisci lì e lo provi, capito? Un attimino Gianni ti faccio entrare subito, vai Gabri. Va bene, dai, lo vediamo domani, infatti. Un saluto. Ce la risentiamo domani, grazie per adesso, ciao, buona serata. Ehi, a positivo, ciao Gabri, alle prossimine, grazie a te, dai, ci riascoltiamo domani. Avanti Gianni di Chianamonti, buonasera, con la speranza che tu mi ascolti, cambio. Santiago 9, Radio 5, Gianni, Santiago 9, Radio 5, io... già, 9:30 salita a San Carlo. E allora questo barracchino sta andando alla grande. Sta andando alla grande qua. Bisogna che le mettiamo un chiodo e tutto va bene. Dimmi Gianni di Chiaramonti. Ultimo Gianni, te l'ho detto. pressione aumenta sicuramente, io clavicini non ne uso. Ne uso uno solo, ma è un'antenna particolare, quindi non ci sono problemi. Però per le verticali ti conviene usare sempre esclusivamente cavo grosso, Gianni, capito? Poi segnale, anche se il fondo scala lì è mio, non ci sono problemi. Adesso se con l'antenna grande chiaramente il segnale è aumentato. Io ce la dovrei fare, arriverò come arrivo, nel senso là, se Fatto Alghero, arrivo così come sono, vestito da lavoro direttamente a Sassari, non mi conviene neanche passare a casa alla fine, capito? Come fare un panino così durante il viaggio, dai, facciamo così allora, là, non c'è problema, cerco di essere puntuale, là, almeno se non so domani si fa tutta una tirata, non lo so, perché sempre tutta sorpresa lì. Se fa tutta una tirata rientra a casa verso le 5, 5 e un quarto, se no alle 7 e mezza, esagerando 8 meno un quarto sono a Sassari, ecco. Vabbè, ma senti dopo la casa, vediamo se è il tuo, perché era il telefono, se ha ricevuto la conferma si fa domani, quindi al 90% si fa domani, però ancora non abbiamo ricevuto la conferma, capito? Perché devono venire delle persone e bisogna vedere se sono disponibili, tutto qua. Quindi se non ci dice Antonio ok, non si fa domani, se ci dice ok domani alle 7:30 a Sassari, poi ti confermerà lui per telefono il punto. Va bene, perfetto. Poi mi ha chiamato per queste cose, poi mi sta spiegando, tra virgolette, un po' la situazione che è successa ieri, di nuovo sempre magagna, porca miseria, ma sperando che si sia risolta, perché la verità non ci ho capito niente di cosa sia successo ieri sera, perché non ero presente, comunque me lo potrei immaginare, dai, sempre sperando che non ce l'avessero con te. Guarda, io neanche c'ero, quindi non mi interessa, non ho chiesto niente, non mi interessa niente come. Io non c'ero neanche, quindi non sono intervenuto, non ho commentato, non so niente, non mi interessa. Perfetto, va bene, ieri c'era KP2, sentito l'hai? Sì, mi arriva quanto è te da muro, se 9:30 mi arriva. No, ma là, anche lui è un vecchio CP. No, già arriva abbastanza bene, ce l'ho presente, diciamo, la persona così, vista a Ossi facendo la spesa, e poi il punto in cui abita, là, alla fine è uno schiocco la casa. No, sono contento, dai, dovrebbe attaccarsi anche stasera, se non ho capito male, se aveva, diciamo, la possibilità per non disturbare a casa e via. No, vedo che piano piano i vecchi stanno rientrando, dai, nel senso buono i vecchi, ecco, sono contento per quello. Non c'è problema, c'è il numero di telefono di Giannio, quindi l'ho avvisato io e adesso pian pianino già riprende lui e altre persone, eh? Infatti deve venire anche lui e quindi devo dare il numero di telefono ad Antonio di Capri e lo deve chiamare, però è tutto ancora da confermare, Antonio, quindi se ti chiama Antonio e ti conferma sappi che si fa, altrimenti è negativo. Per il calcio troverà, dai, qualche giornata libera per tutti, dai, va bene anche entro settimana, giustamente se uno si sacrifica, se va bene così, dai. Comunque, cosa hai mangiato di buono, un affare? Cosa ho mangiato di buono io? Una bella parmigiana, però purtroppo io qua non la sto mangiando e quindi mi è toccato con quelle fette integrali che fanno veramente schifo. Un bel tartone d'acqua e poi la frutta. Non sto mangiando molto, la verità. Non sto mangiando molto perché altrimenti esce di nuovo la pancia. E invece così sto benissimo. I dolori alla schiena sono passati, adesso ho questa pediatrite che sto curando. E basta, per il resto va tutto bene. Quello sì, io invece in 8 mesi ho dimagrito una decina di chili perché giustamente 8 ore di fila, mangi in piedi senza fermarti, poi quello che riesci a mangiare, dunque alla fine a vedere se non scendi di peso, anche io c'avevo una leggera pancetta che ne sta andando in 4-4-8, adesso io sono con 12 trioli, vedi tu, siamo non fame. Una salatona io la mangio a pranzo, anche se è tardi, però una bella salatona. Io ero 90 e sono 80 secco, quindi, anzi 81 la verità, però ero 90 di nuovo, quindi abbiamo rifatto il sacrificio, va bene così, sto benissimo, non me ne frega assolutamente niente. almeno ho tirato fuori dall'armadio un po' di roba che non mi mettevo prima, avevo la pancia, era veramente impressionante. Vabbè, ma sei già partito per oscillare o sei ancora a Sasse? No, sono ancora a Sasse, aspettando qua, ancora un'oretta buona c'è. Dovrebbe uscire tra poco, speriamo, sta tutto bene. L'oretta dovrebbe uscire, è entrata alle 8, ma puntualmente alle 8 dovrebbe accettare un'oretta buona. Anzi, mi sa che forse sta uscendo adesso, riesce a vedere. Mille vino, ma adesso è uscita, allora si riparti a casa. Don Antonello, Oscilandia. E io avanti, buonasera. Le compagnie anche di Claudio Sparviero, avanti. Buongiorno, ciao, buonasera. Scusa Claudio, era a vedere come stavo uscendo. Se ti rispondi Antonello, io te l'ho già dato il controllo, per me va benissimo. Antonello, hai sentito Giuseppe? Eia, vai avanti, fai la cortesia, era un po' distratto, sta facendo sedere a Patrizia in macchina. Avanti, buonasera. Antonello, Leoncino sono, ascolta, ma un piccolo controllo come si sta uscendo. Sto portando un'antenna e da dentro un circolo e volevo vedere come sto uscendo. Eia, qui ho Santiago di 5, la radio di 3. Però sono qua, zona un pochettino chiusa, la zona della Brigata Sassari. No, comunque, basso di segnale, vabbè, per la zona in cui sono io, però molto, molto comprensiva. Sì, va bene, grazie. Riprendi tu Claudio con la gentilezza, grazie. Non c'è problema Giuseppe, vabbè, ti ricordo che lui è in macchina ed è in Brigata Sassari. Qua ti ripeto, il tuo segnale oltre 9, radio super 5. Ok, grazie Claudio. Riprendi pure, dai. 5 minuti di tempo per me, dai. Campo di positivo. E quindi stai partendo, no? Pronto, sono. Buonasera, sono Mariuccia, un po' sono spavale, grazie, buonasera. Buonasera Mariuccia, certo, hai telefonato benissimo Mariuccia. Sì, mamma mia, sono tutta spaventata, sono male, sono una ragazza proprio incinta, di 6 mesi, i tamponi, Attenta, attenta, non partorire. No, no, sta tranquilla, Vedete che cosa bella? No, lui chi è? Non ha con la coppia vicina a Picciò? Mariuccia è Mariuccia. Ah, tu non sei Mariuccia? No, la verità no. Buonasera Mariuccia, se mi copia Antonello Barracuda. Vai, vai. Buonasera, sono io. Sì, mamma mia, sono tutta innamorata di lei. Oh, come ce l'hai lungo il microfono. Sentite cosa ti ho detto Mariuccia, che c'è il microfono lungo. Microfono lungo, e cosa vuol dire? E cosa ne so cosa vuol dire? Se ti avvicini dove te lo dice. E dove si trova? No, vabbè. Mariuccia, dove sei? Io sono qui, guarda, a Napoli mi trovo, sto aspettando il cane, credo, aspetta che venga a prendermi per stare a Carbonazzi, ma non vedi nessuno. Guarda, è un passaggio, Antone, a Mariuccia, che in città non ce la fa camminare. Ecco, auguri da parte di Antonello, sono contento. Niente, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, poi ti sento piccola piccola. Claudio, che c'è anche l'emorroidi. Ah, dove c'è anche l'emorroidi, non può camminare. E Cla. Mariuccia. Oh, io non l'ho mai sentita, ma nuova è. Non lo so se è nuova. Mariuccia, moglie di chi sei? Ma la moglie di Oncino sì. Ah, prima non sto parlando più, ciao Fabri. Ciao Cla, dammi una bella caricata. Ah, già è riconosciuto, sì. siete gli occhietti tutti verdi. Ui, ci l'ho visto bevendo quella cosa rossa, mamma mia, mi sembrava invece Mariano. Oh, se vuoi venga a trovarti, come venga a trovarti io, mi cara? Sono vicino a te. Vabbè, bussami la porta. Fa la voce da Roma, Antonello, che è una cosa allucinante, eh? La massa di Nevaria. Guarda. La fine, hai capito Antonello Ossilandia chi era? Non hai capito? Sinceramente, ti giuro di no, Cla. Antonello Pomponio, Antonello Pomponio, allora è la sua, una nuova fiamma. Che sempre l'ha fatto? Già ne ha marcato uno o due, o questa cosa di Mariuccia, siccome io già mi sono ricordato. Ma non sai gli appuntamenti che ha dato facendo a Mariuccia? Andavano sotto casa sua e lui li guardava dalla finestra. Così è, orca, meglio dove si trova adesso? In giro è con Peppino, o Giuseppe. Mi miei cocomi. Buonasera, io ti ho fatto la cosa a poi lo vedo. Mamma mia, due canne ho visto. Cosa hai visto tu, Due canne. Cos'è, di mambù o di quelle secche? Oh no, buone davvero, ero. Ma di che miseria, che male, una fotografia di sua astinenza. Cazzo, ma non c'è il telefono adesso, non so se che mandate, su internet, a Fattuccio, no? Ma io ti mando, comunque io do Pinuccia, se dico di te, ma lui ce la faceva Stefano. Ma lui ce la faceva Stefano, fratello Luca, tu Pinuccia facevi, fessio Maria, due bidoni guardiani, e poi Fabri, mangiato? Mangiato è quasi digerito io. Cosa sta guardando, allora se c'è il grande anche lui non se ne va a letto, capito? Vediamo, la prossima volta portiamo il grande, vai. Così le facciamo vedere il radio per se le piacciono. Non credo, quello se ne affutti. Lui era più appassionato della bicicletta che era il radio. Ma si dice dov'era di quella bicicletta? Quell'uomo ce l'aveva rubato. È forte, attento, Madonna, è bello sveglio. E attento, quando tu gli hai detto che lo sei, quando sei uscito, ma perché io sono venuto con te, quel signore è andato con lo zingaro? Lo zingaro, perché ha sentito a te? No, perché gli ha detto, quando siamo saliti, gli ha detto, vedi, questa è la macchina della zingari, gli ha detto qualcosa del genere. E allora gli sono ricordato, quando poi ti sei seduto, se l'ha guardato, ma perché sei seduto, tu sei con me, lui sei seduto, il signore si è seduto con uno zingaro, e detto, si vede che è bello sveglio. Via, o si rende, dove sei arrivato? Antonello. Dimmi qua. Dai. In OSS. E all'entrata di Sassari. Ero fermo all'ultimo semaforo dell'ospedale civile e sto rientrando a casa piano piano. Adesso fai via d'Italia e esci dalla circonvallazione. Proprio all'entrata di Sassari. Dove c'è la zona di passo in più? Sono qua in quella zona lì. Di fronte adesso in questo momento diciamo al penultimo semaforo dove c'è l'IP che si affaccia alla reggia di Grotte adesso. Ah, positivo, ho capito. Ho detto, ma fai l'Italia, esci dalla, fai le gallerie e poi sali. Sì, direttamente le gallerie, sì. Positivo, già va bene. Già siamo qua, ti facciamo compagnia. Giuseppe, dove siete? Dice, ci bisogna fare dell'uccito a Bimmi Fabri. Auguri, sai che secondo come hai detto, domani li vediamo in giornale. Sarebbe bello travestire Antonello da Mariuccia. Sì, per carità. C'è una parrucca rossa, la vedi la gambo. A carnevale possiamo sentiamo tra poco. Ehi, Antonella, siamo qua, non ti preoccupare. Campo di Rogero. Sì, Antena 1 mi pare che OTG, una cosa del genere, facessero degli spot pubblicitari e poi addirittura c'era un programma proprio fatto da loro due. E qualcosa l'ho visto girando tre canali, poi se la verità con questo digitale terrestre, quei canali secondo me andranno a morire, perché io proprio prima ce l'avevo subito dopo, quindi magari spazzolando ogni tanto qualcosa la guardavo, adesso è quasi impossibile secondo me guardarle. Non sto andando più niente, più che televisione locale non c'è, altre cose importanti, via aspirina, stanno dando nuovamente alle 3 mi pare, all'una e alle 3, e la guardo sempre, sono due fesserie, capito, poi per il resto non c'è altro. Lo strumento esterno funziona, però non, non sale lo strumento della radio, quindi molto probabilmente al 100% il dio viene di del preamplificatore, diciamo, so dove so anche misurarlo, quindi se è quello si può cambiare la radio, torna alla normalità, però sperando non ci sia qualche altro problema. E le giovetti purtroppo si fidano molto a comprare radio di quella di quelle dimensioni lì da persone non affidabili ed è un casino. Cosa vuoi che ti dica? Vabbè, comunque lo portano domani sera, lo mettiamo sotto i ferri. Ma lo sto sempre guardando, te l'ho detto Fabri, sto sempre guardando su internet, anzi guarda se lo vedi anche tu. Devo comprare il detettore spettro con l'oscillatore completo di oscilloscopio. Così me lo metto qua in quella scrivania piccolina dove c'è quella TV. E quando devo fare qualche lavoro, qualcosa di importante alle mie radio, o a qualche amico, ho lo strumento per poterlo fare, capito? Perché adesso sto usando sempre il tether, però in piccole cose. Ad esempio, ognuna da ritoccare, che avevo comprato un 140 che è dentro l'armadio. Adesso qua non ce ne stanno più, quindi. E dentro l'armadio l'ho comprato da un CB di Sassari che non sta più parlando. Ed è tutto toccato, tutto. Si è messo a pasticciare con i trimmer, va tutto incasinato. Però è centratissimo, fortunatamente non ha toccato le medie frequenze, ha toccato solo alcune cosettine, però è incasinato. La ricezione è tutta distorta, la trasmissione va per i cavoli suoi, come radio e come frequenza è perfetta. E devo metterlo sotto i ferri anche quello, ma la giubbocca gara. Io tempo fa stavo controllando e mi sembra di aver visto qualche oscilloscopio anche a parecchio abbordabile. Bisogna vedere che tipo di oscilloscopio stai cercando, con quale frequenza. Però qualche cosa di interessante l'avevo vista anche un po' datato, ma tanto per quello che serve a te, va benissimo anche qualcosa di datato, non di ultimissima generazione, vanno più che bene. Ma non mi interessa l'ultima generazione, anche quello vecchio lo so usare, non c'è problema. L'importante è che abbia tutti i cavetti di connessione, perché sono i cavetti particolari che poi non trovi, capito, a comprare a parte, perché molta gente fa come le radio, mi fanno ridere, a volte vedo degli spot su eBay e vendo per dire TS-140 con il cavetto di alimentazione originale ma senza microfono, il microfono mangiato te l'hai. Quello lì anche io, quello che l'ho visto, ma è il microfono originale che viene fatto. Se lo vedono a parte Fabri, se lo vedono a parte è normale, no? È normale. Oppure il cavetto, è sprovvisto di cavetto alimentazione, sì, è cosa la faccio. Io me lo so fare il cavetto alimentazione anche io. Non è un problema, molta gente non lo sa fare perché sono quattro fasce, due rosse e due nere, perché ci sono i due fusibili interi, quindi devi fare prima le fasce, accoppiarle con le fascette e poi fare le connessioni di alimentazione, perché sono 2+2. Io me lo so fare, però chi non lo sa fare rimane senza, e lo deve ordinare. Invece quello lì ti dà la radio e il cavetto se lo mette 25 euro a parte. So di arrivare a butti, per carità, io non ho la radio, tutta la verità, tutto. Io ho venduto il TS2000 a Massimiliano Archimede, gli ho dato tutto, anche i fusibili che c'erano in dotazione, tutto quello che c'era, come che l'avesse comprato nuovo. Ma ho capito, sì, no, l'ho visto, infatti, ho detto, ma com'è possibile senza cavetto di alimentazione? O poi cerca magari, alla fine se ne accorge, uno si rompe, si fa uno, c'è un paio di radi, magari una la vende, l'altro se lo tiene. E così fanno con l'analizzato rispetto la stessa cosa. Tiene un alimentatore col cavetto suo di alimentazione, non tiene i cavetti in dotazione, quei cavetti è un casino a trovare, capito? Perché sono cavetti di connessione di tutti gli ingressi e le uscite dello strumento. ce ne sono quelle pizzettine per agganciare tutte le funzioni radio eccetera, quindi devi averle tutti quei cavetti. Mi pare debba essere da 0,5 kHz a 1 giga, una cosa del genere, dove anche se è modello vecchio, se è vecchio non mi frega niente, ce lo so usare lo stesso. Quindi 0,25 un chilo. Sì, un giga, deve avere almeno un giga, perché è importante quello. E poi deve fare tutte le HF e le VLU. Ma di solito sono quelli digitali, anche quello che c'era Massimiliano era, non era di ultima generazione, comunque funzionava bene. Ma adesso se ne trovano, anche perché è tutta roba surplus che magari ce l'hanno bene, quelli lo sa meglio di me, tutti questi autorizzatori tecnici, ormai la maggior parte stanno chiudendo e quindi un sacco di apparecchiature che sono lì in svendita. Sicuramente. No, ma già si trova, ne ho visto anche uno da poco. Il prezzo era anche buono. Però stavo guardando altro e poi non mi ricordo più dove l'ho visto, anche qua già l'ho visto e l'ho mollato. Ma già ce n'è. Già si trovano, vabbè, non c'è problema. Poi ce me lo prendo, faccio quella scrivania piccolina che hai visto, e tolgo il televisore, intanto adesso mi compro una paretta, io sono i faretti, lo metto lì da 22, piatto, attaccato al muro, sopra il PC, e quella scrivania lì la uso per fare i lavori. Per la mia vita non c'ho posto, capito? Non c'ho nessun posto. Ho capito. Sui YouTube ne avevo vista molta di quella roba. Dove l'hai vista? Tempo fa però. Stavo cercando anche di prenderlo. Stavo guardando e ne avevo visto parecchi sui siti. Prezzi veramente buoni. Oh. E allora è interessante questo. Si può fare. Ma non costa molto, ti ripeto, Non costa molto. Quelli di ultima generazione costano su 600 euro, 500 euro. Quelli di vecchia generazione li trovi anche a 200, 250. Infatti adesso sono, c'è avuto un'occhiata se sia qualcosa, perché all'epoca c'era. Guarda, già sono qua. Adesso hanno un'occhiata, uno già, però l'altra volta era pieno, però poi ce n'erano più di uno in vendita. Sembra interfaccia. Ah, questo c'è un modem mio. Ho un modem che ho comprato e c'è già il programma dal computer per il 950. Tanto quello lì è. Hai davanti grande, di un cesso. Modula solo un SSB. Va bene, solo in mano laterale. In AM è uno schifo, un FM idem con la patate. E quindi lo uso solo per HF, capito? E allora mi ha fatto un collega radioamatore, mi ha collegato il modem e in pratica quando faccio contest e quando lo uso in HF per altre cose mi visualizza tutto direttamente al computer. Capito? Peccato perché non ho una bella radio, però in AM non va. È un'orazione molto brutta, ho provato a inserirli anche nei mesi 60, ma non è il top che piace a me e quindi la uso solo in HF. Preferisco parlare lì col baracchino del Tame più 3 più che usare quella linea M, perché fa veramente schifo. Ho capito. Ma alla qui radiomatoriali decametriche che vanno bene sui adesso le ho avuto queste qua, queste 240, 140, roba qua. Sì, sono quelli, perlomeno io ho constatato solo quelli, di vecchia generazione. Il 940 andava un po' bene, dimmi chi è, perché strappo qua subito, modifiche non se ne possono fare, è un quattro conversioni automatico, quindi no, non si poteva fare niente. L'850 idem con le patate, l'ho comprato, l'ho rimandato, si mette indietro, infatti avevo comprato il TS2000, ho detto vediamo se il TS2000, se devo anche in Modename funziona bene, uno schifo totale. Alla fine mi sono rotto le scatole, ho detto non compro più il radio digitale, e intanto lo so, l'esperienza mi ha insegnato quello, la radio digitale, quelle quante siano per Modename, sono uno schifo, non ce n'è neanche una che va bene, invece quelle analogiche di vecchia generazione, sia Kenwood che Icom, insomma già vanno bene, ma gli altri non si viene a nulla, Fabri, meglio niente. Però tu considera che se spendi tanti soldi per una radio, poi non la usi ovviamente per girare qua, la usi per altro, quindi alla fine bisogna anche valutare quello, infatti come vedi hai visto un cosa modulo io, un marchino 23 canali, un buon microfono e un linearetto giusto per spingere qualche watt in più e basta, però la radio HF la sto usando diversamente. Il 430 mi è collegato, ma è collegato sulla verticale perché lo uso in 10 metri a 28, capito? E quindi faccio ogni tanto qualche passaggio con quello lì, ma no, non mi attira più di tanto, nel senso che sono radio sprecate per usare in M, capito? Conviene avere un maracchino a 4 soldi come questo, tranne più 3 che il microfono a livello mondiale non supererà mai nessuno. Un linearettino tipo quello che hai visto e basta, per fare due chiacchiere ce n'è, ne avanza pure, poi se devi fare il grande c'è l'ANA 48 Valleco, quello c'ha la sua bestia collegata e lo uso ogni tanto anche qua su 10, poi lo fa, sto usando quello, ma vanno bene i baracchini, dai, a questo livello va bene il baracchino. Poi se devi avere il top, allora uso il 440, uso anche il 430, esce benissimo, il 140. Già bennara. Ho capito. Sì, stavo dando un'occhiata, non so se c'hai internet lì, a portata di mano. Qualcosa c'è, andiamo a vedere qualcosa c'è, dai. L'ho spento con fa, mi stavo guardando la porta quando siamo rientrati, Fabri è volta la porta, l'ho spento e fa un bel di luce e mi dà fastidio agli occhi e quindi l'ho spento, ma se tu mi dici che c'è qualcosa poi domani mi metto alla ricerca io, non c'è problema, prendi, ci sono e un po' tutti qui, Silvano, dipende da quindi sono anche dei begli apparecchi, ovviamente tutti i prezzi tra le 150, 170, 300, 8 euro, 10 euro che sono all'asta, quindi a vedere esattamente se qualcuno ha qualche problema, però penso che intorno, occhio e croce, intorno alle 250 c'è qualcosa di buono, questo da elettronico, quello che lo posso fare, questo qua. posizione dei trimmer, capito? Poi li richiami a uno a uno cliccando sopra il trimmer e ti dà la posizione, no? 10%, 20%, 30%, e quindi le posizioni come devono essere. Una volta sono tutti posizionati va benissimo, perché le bande laterali sono perfette, perfettissime. Io ci modulo anche in banda laterale con quella rete, ci modulavo con una solo 8, ho messo 4,30, però in AM è tutta toccata, tutta toccata. Addirittura come schiaccio c'è lo strumento dei watt che se ne va tutto al massimo e non si sposta lì, e quindi immaginate cos'ha, tutto toccato. Adesso che ho messo tutta la potenza manetta, amichini tutta manetta, c'è una radio pessima, brutta, quindi devo rimettere tutte le cose come erano bene a posto. E poi magari se serve a qualcuno glielo, perché quello girava molto bene, non lo ricordo, l'avevo usato, girava molto bene. Ho capito. Ma lì sicuramente non è che l'hanno molto, non è che l'hanno manomesso, lì hanno girato il trimmer facendo prove contro prove per aumentare quello, aumentare l'altro, e l'hanno incasinato, bisogna solo riallinearlo, non sapere dove mettere le mani con lo strumento e metterlo in linea, appunto. Se poi non siamo messi a fare punti strani, cose strane, non ci dovrebbero essere problemi, capito? Ma c'è qui, adesso comunque stavo guardando qua e vendono anche tutti i gravi, i cavettini, in base alle frequenze, no? Più ovviamente sali più li paghi, cioè di 13, 20, 25 euro il set di cavettini sto vedendo, quindi non è nemmeno, si trovano, dai. No, ma lì non hanno toccato niente, l'ho controllato tutto filo, pagina per pagina, è tutto a posto, trovate le bande laterali, sono tutte a posto. Lì si sono messi a toccare, non è questo, non è questo, non è questo, li hanno tutti spostati. E fortunatamente non ho toccato nome di frequenza perché me ne sono accorto. È abbastanza in sonda la radio, capito? Quindi le medie frequenze non le hanno toccate, però ci vuole tempo a mettere sotto con il filatore, banda per banda, sintonia per sintonia, trimmer per trimmer, tutta la parte della M vuole tutta completamente messa bene. E quindi l'ho staccato, l'ho messo dentro l'armadio e mi sono collegato al 430, visto che il 440 non funzionava, se funziona il 440 sto usando quello e il 430. Alterno un po', dai, e se non sempre con questo, col baracchino piccolino, 23 canali, alterno più 3 da tavolo. Hai visto il modello alterno più 3 qual è? Che tu forse non avevi capito l'altro giorno. Sì, che l'ho visto quello nero, tu pensi io non stavo guardando, ma stavo guardando, capito? Stavo guardando, ho visto tutto, quello nero, l'ho visto. Ma non è tutto nero, questo è Super Sidri, praticamente c'è la cassa in acciaio inossidabile, hai visto? Sì, vabbè, quello ho fatto visto che aveva dove c'è la capsula, bello largo, in colore argento, io già lo stavo guardando. Se mantieni a questo microfono 15 anni, hai visto forse un graffio? O quanto è lucido il portacapsula? Sì, ma ti ripeto, se poi li tieni sempre lì come li tieni tu, è ovvio che alla fine come fa a rovinarsi se non ci mettono le mani? Quindi a rovinarsi se ci mettono le mani più persone, se inizi a prestarli uno all'altro e poi li butti dentro una scatola perché qui non lo usi, poi lo riprendi, poi lo butti in un cassetto e così si rovinano. Invece in un'altra maniera, se li tieni lì ogni tanto gli dà una spolverata e rimangono come nuovi, voglio dire, no? Beh certo, poi il piano di lavoro sono tutti, non si toccano con l'altro, non sono sopra le radio come hai visto, quindi è molto importante anche quello se vuoi che ti duri la cosa. Le radio, visto che non sono una sopra l'altro, c'è il suo palchetto fatto dal falegname proprio per non graffiarsi. I baracchini, quelli che hai visto uno sopra l'altro, sotto c'hanno tutti i feltrini e non sono tutti isolati praticamente. Hai già mai dovuto Antonio, io ce l'ho detto, dimmi qual è il tuo M60, adesso là, vediamo se lo riconosci. Io ho visto. capito, controllando il down e up se funzionava. Ma l'ha detto lui. No, ho tutto sistemato e l'ho recuperato, adesso è a posto un buon micro. Però ancora non glielo ho consegnato perché lo voglio tenere sotto controllo, visto che quella capsula, vabbè, è alimentata a 6 volts, come l'altra, gli ho messo un adattatore di impedenza all'interno perché la capsula che c'è è da 700 km, invece nei mesi 60 lavora a 500 e a 50, e quindi gli ho messo un adattatore di impedenza all'interno e va benissimo. La radio è più che ottima, più che ottima. Adesso le lascio la spugnetta antisoffio anche a lui, perché è molto importante se quei microfoni avere la cuffiettina antisoffio. È molto importante perché non disperde la modulazione, rimane bella compatta, bella pulita. Avanti Greco. Avanti, avanti. Avanti Gianni, ma non lo senti a Fabrizio? Però fa un sacco di bordello, no? Non fa. Mi stai ascoltando più basso con questo? E leggermente, vabbè, leggermente, però mi stai ascoltando più basso, è normale. La potenza è molto più bassa, ma l'importante è la radio sia forte e chiara. Infatti sono neanche la metà, guarda, ho già, neanche la metà proprio. È un centinaio di watt che sto usando. Giusto perché questo KV23 c'ha 3 watt e mezzo e quindi se non li dai almeno un centinaio di watt non arriva a nessuna parte. Fabri, ma a Gianrica Chiaramonti sì o no? Io non so se ci arrivo, io sto facendo questo apparecchio da 3 watt, non di più. Cosa vuoi che faccia? L'hai sentito Gianni a Fabrizio? Beh, se senti la voce va bene, se segnale non è a partenza. Antonello Motocompa, via avanti. Ma sono rientrato, ho appena mangiato. Ti ha messo ancora che sei rientrato, sì, io dal bipi ti conosco. Quando tu fai bip bip bip, vuol dire che sei tu. Se invece fai bip, allora sei tu però che non hai ancora mangiato. Di sicuro, l'altro è l'altro baracchino che ce l'ho da una parte. Quello fa un bip solo. Ne ho tre caparetti, c'ho questo, 4.500 di quello che non sarà mai ritirato, e l'altro. Ancora non sarà ritirato per 4.500, io non ero vivo a dubbio. No, non ero più proprio. Perché io sono anche soldi della riparazione, me lo prendo così come 50 euro, ma non me ne porta proprio niente. Hai capito? No, non ci vado a guadagnare, invece per lui. Invece per lui, non mi frega proprio niente. Mi ha fatto un sacco di casino, per averlo subito, mi ha fatto diventare scemo, per cercare uno Smith, mi ha pagato 25 euro, ma gli ho detto guarda che ci sono 25 euro di Smith, più tutti qui, tornato tutto smontato. Neanche la verità riuscivo a cavare il piede, sono andato la cosa Adriano, mi sono fatto la mano e sono riuscito a ripiazzarlo. Io questo solamente 50 euro, adesso non li dirà più, ma specie per lui se la piglia ancora. E fai bene, te l'appoggio. Vai Fabrizio, va bene. E poco sei caro, cacchio. Ma credo che non li ritira. Vedi se i crumiri. E non ripeto, ma com'era? Facciamo la spesa e mangiamo qua. Se invece muoviamo, c'è buona notte. gli alberi in campagna. Non ci vengo io da solo, Già non ti ho detto, non ti preoccupare, già lo sai che non sei più un tipo caro. Sì, tutti così dico. Dopo te compro la prendo, imbarrato. Ma tu non eri quello che usciva con Falcone? Io una volta sì. Facciamo come tu dici, andava solo per soldi. Adesso lo fai per passione. No, lo faccio per l'occasione. L'occasione rende l'uomo maniaco. Ho capito. Grazie, se lo vuoi ospitare. Sì, sì, chi è questo? Aspetta, piacere al bambino. stato un pinuccio e basta, non so se è stato un 5 o dove andavano, se non avevo chiesto. Il segnale molto più basso rispetto fatto il dubbio, siccome ottengo sempre il LT250 in watt, l'ho messo in, in stazionarie, e c'è una stazionaria dove si lavoro con un E1 da tutte le parti. C'era qualche pila in corto, qua giù dal topo, sono salito su, come sono andato a stringerlo, mi è rimasto in mano, spacchiato in due. A proposito di questi pili che ne ha sulla sera, solo che sono andato in tutti i metri di stagno e non riuscivo a lanciare, se ci muoveva ci piaceva in terra, quindi non riesce a saldare, ti sto avvisando che era all'interno non so, dai, lo sai, non ce la fa. Quindi bisogna fare a colpi, un po' prima e un po' dopo. E così ce la fa cagnare. Senti, metto subito lì se non te lo mangia. Io lo so, ci sono piede da due lì dietro me. Io già avevo quello, ne avevo due alfero e l'ho messo su al posto di quello che tiene un po' di potenza, l'ho soldato bene, l'ho soldato a gas e l'ho sistemato subito. Adesso stavo provando l'amplificatore stasera e ho visto che viaggia, mi ha mandato tutti i controlli, ma poi mi ha mandato anche Gianni, quindi non c'è problema. Però bisogna stare attenti con quei PL, bisogna stare molto molto attenti perché sono dei PL un po' balordi. Possono andare in corto da un momento all'altro, c'è questa, io poi non è macchinita quella, è una plastica dura rispetto a quella gomma che mettevano bianca, ricordavo la gomma, come lei appoggia il salvatore si scioglie. Invece quello resiste di più, però devi stare attento alla potenza, e secondo quello che usi te lo manda in corto, come ha fatto a me. Allora, non fottimi, siccome io giuccio tutto anfano, ne avevo comprato un pacco da 10, poi ne avevo recuperato altre due, dai cavi che ho staccato in via Pascoli, li ho puliti, risaldati, lavati bene con la trinina, li ho fatti asciugare e ne ho usato uno quanti ieri. E va bene, l'altro ho conservato, nel caso mi serva per altre cose. Però bisogna stare attenti, PL buoni a Sassari non ce n'è. Claudio. Capito. Forse mi sapevano tutti le PL della B27, non si chiamano quelle che hanno problemi. Se carico, vanno in tutti, se non carico invece, vanno bene. Vado a venirmo. Domani sera da faccio un esperimento. Domani sera mi metto le regine 213 e vediamo quanto vanno le stazionarie, se salgono o se scendono. Se metto qua scendono è quello, se no prendo i corsi, le gaffe, già che sta fuori stasera me la compro e se lo chiedi come faccio con il lavoro, perché così non posso fare male, ma se faccio la pioggia sono i fine di settembre, cioè prima, quindi siamo già fine di settembre, intorno al 20 di settembre, quando comincia il caldo a diminuire, comincia questi, i temporali invernali, ma posso mi fare un accidente. Claudietto. Giuseppe. A sapere, a Mariuccia a casa, a ne base a bufaturi. Se l'avevo riconosciuto io che era lui. Non c'era problema, volevo far cadere l'altranello Antonello Sirani, invece non c'è caduto. Grazie per carità. Comunque, qualcuno non l'ha riconosciuto, Antonello Sinati non l'ha riconosciuto, non a me. È un papà che non facevo quella imitazione questa, Se faccio anche l'altra imitazione, ci manco tutti e due, te lo sto dicendo io. Tu te lo ricordi, perché te lo ricordi, però era un papà che non facevo, mi faccio un nuovo tutti i giorni, allora sì che mi divertivo. Da me è Peppala, guarda, se niente a Peppala, baracchino, che Peppala, adesso si compra il baracchino, mi ha detto, se niente a lui a fare con l'amministrazione, lo facciamo assieme, ti sto dicendo che non niente, ci ringrazio. Quel capo e... Non mi sono andato come tu, mi sono... vicinati, si sono tutti interrotti. Ho detto, Giuseppe, vuoi arrivare a Budino con quarantena? No, sto parlando qua con il fratello, al circo, gli ho messo la quarantena. No, io Budino pigliare antenna già per arrivare, già arrivo qua sopra in un certo, ieri stavo arrivando bene. Infatti, come si chiama il fratello Giuseppe? Si chiama? Non me lo ricordo, Giuseppe, come si chiama tuo fratello? Nico. E come senti? Sì, che ti sento. Ah, va bene lui qua. Tu la faccio male, a lui non ci va bene. Io sento a Giuseppe, sto cercando di entrare in comunicazione con lui, ma lui no. Sento. Però sento un fratello. E fino piccolo piccolo lo sento, però ho capito, Luca, lo sento piccolo piccolo, ho capito. Vuol dire tanto l'antenna, vuol dire molto, no, però tu sai di. Vabbè, però sta arrivando meglio Nico che Giuseppe qua. Nico 9-10, Giuseppe 9. Però serve c'è l'antenna, qua. Va bene, sento un ciclo. Sì. Dove sono i bagni? Ce l'hai presente dove sono i bagni? Giù. A te altri bagni? Non vedi se stai arrivando Nico qua. Io mi sento benissimo. E Giuseppe che non riesco a sentire. Giuseppe. Ma tu non lo senti niente, Giuseppe Nico. Piccolo piccolo lo sento, hai capito qua. Piccolo piccolo. Anch'io ti sento piccolo piccolo, però è lontano. C'è una bella radio anche, ma ci picchio. Ma che microfono sta usando, Antonio? Quello che c'è che hai visto stasera, in quel baracchino, sta usando. Quello è 1115, con la capsula del MP3, quello per male. Che miseria, bella radio, forte. Giuseppe, fotti tu da me, dove l'ha detto, più forte di 10. Cazzo, lo so pure che ti faccia, Cla. Adesso facciamo anche noi, le facciamo l'operazione adesso, fra un po', dai. Riusciremo abbastanza forte, dai. Oh, il posto, lo vuoi, te lo do, questo baracchino, tanto c'è anche l'altro. Se lo vuoi, te lo dà, mi tanto c'è anche l'altro. Ti conviene di prenderlo al volo, mio amico. Voi si tratti con lui, su i più forti. Ma forse dipende tutto dall'antenna, perché con voi ho dato una bella antenna. E amico, l'antenna, quei barducca lì funzionano bene, capito? Funzionano molto bene. Ma Giuseppe non funzionava, dice che non prendeva niente a casa, quindi me l'ha tolta. E allora me l'ha messa Giuseppe, magari lì nella posizione che l'avete messa voi, va bene, che aspetta se non più 10 qua. Sono dentro il circolo, proprio dentro, nel magazzino. Arrivano, Nico, benissimo. Claro, vai, ti porto tutti, faccio quello che ho messo l'antenna. Il bazooka, beh, tu ti dai che è un miracolo che sia così, che non è possibile. Giuseppe ha messo l'antenna fuori, la stessa antenna non usciva un accidente. Fuori, oh, deve essere la mano! Allora non so cosa. La verità qua non lo so. Comunque sta uscendo veramente bella con l'antenna. È veramente bella, bella veramente. Forse penso che è molto superiore alla qualsiasi altra antenna, perché uscire da lì dentro, dentro al magazzino, che c'è tutto quel muro, tutti quei palazzi, manco in macchina esci così, a tutti i dini, se la passi in macchina, come dovete attraverso un'altra volta, detto qua, come ti ho detto io, la prendevo la bazooka in quella macchina che c'hai, in quella bianca, tu mi hai detto così, mi hai detto, oh, me la futti nuda. Aspetta, che sto accordando. Che mi ero spostato. Beh, aveva vai, fratello. Ma non te ne aspetta, muovo. No, claro, tu non sei ancora attaccato per niente. Sta andando in casino con l'apparecchio. Gianni. Ma no, quello di Giuseppe. Ah, ci sei già. Ma ascolti, quanto arrivo lì a Telemonti? Cazzo, sono antenna. Penso sia antenna. Sono antenna. se già c'è. No, no, qua non ci sei, no, per niente. Sì, c'ho 100 watt, 80 watt stazionari, 1 e 1. Se non c'era l'antenna attaccata, se già è attaccata. L'ho montata, ecco, montata. Controlla, controlla, controlla, se lui sì. Mi ascolti, Nico? Ah, ti sei abbassato un bel, non è capito di te. Poco a me che mi abito, mi senza antenna. Poco a fare, guardi, 9, 7, 7, 8, senza antenna. Faccio 6, 1, lì. Prova a parlare, Giuseppe. Giuseppe. Prova con Gianni di Caravuta, se ti sente. Dai, prova. Sto a parlare con Pinuccetto io a Gianni. Gianni, mi ascolti? Te. E quanto che mi senti? No, adesso sono con la potenza minima, 20 watt già. 20 watt, capito? Adesso accendo la luce a vedere, ma già è tutto collegato qua, non c'è problema. Se la T2050 sta segnando, vuol dire che è tutto collegato. C'è Antonello, ci sono tutti, non c'è problema. Antonello, controlla di l'antenna, vado via a dire che sono a posto qua. Mi sente più basso di prima perché i watt sono di meno, ma sto andando benissimo. Qua Gianni Chiaramonti è ottimo, non c'è problema. Adesso va bene, adesso mi sei tu. Ok, sì. Giuseppe. Ehi, ma glielo gioco io, è lui che aveva qualche problema. Io sono a posto, va bene così. Non solo commutato, ma mi sono accorto che non c'era l'antenna attaccata perché stasera mi ha portato il 140 Antonio e lo stavamo provando e quindi ho staccato l'antenna direttamente dalla radio. Infatti ho visto la T250 che stava camminando da solo. Va bene, va bene. Sta capando parecchio adesso, se ti sento bene. Stavo passando a me l'alto. Ok, Luca, cosa senti fatto di Giuseppe? Meglio che faccio il colore fuori gabola. Dentro sembra sottoterra, esce meglio il fratello che lui. 9 per 3, no, sì, 9 per 3, 9 per 10 qua. Quindi fa il note da quelle l'altra. Antonello. Figlia. Allora, facciamo una cosa, domani mattina io vengo a prenderti. Facciamo quel lavoro lì di questa cosa qua, controlliamo tutto quanto e cambiamo quella roba là. Poi ti ho detto, c'è il tavolo a cambiare. Quel tavolo per me è morto, in corto, non c'è una cosa di strada. Non è possibile, tanto non esce. La semente sotto terra è molto più forte di te. Signore di due, è dentro un circolo. Se va bene, se io faccio la fotografia delle ali, nessuno ci crede. E capa, e a Luca gli sto arrivando quasi 9:10 adesso, no? Guerriere. Sei tu Giuseppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 19, 20. Prova microfono, cambia. 19, 20, torna a 9, 10, ma la mano di più forte dalla tua. Vabbè, perché noi siamo vicini, Luca. Punto, ma lì c'è la più lunga, ma è la più migliore di te, di radio. Dimmi qua. Guarda che ho cambiato, questo è il 440, meglio del 430 va. Che cosa la radio qua? Cosa? E più spinta la radio, forse devi fare il microfono. E il microfono è sempre lo stesso, è 2MC60 sono. Più spinta no? 430, 4, cioè 440 e 440 vanno da là. Va bene, volevo solo sapere questo va. KK, c'è anche Gianni di Chiaramonti, vedete un po' se riuscite a sentirlo. Io qua lo sento perfettamente bene, eh. Allora, basso basso. E a Gianni, ma stavi parlando con Pinuccetto prima? Se attacco anch'io ti arrivo anch'io a fondo scala già. Solo che non si può stare sempre con tutta quella potenza lì e con l'Alan 48 che fa un sacco da brutto, capito? Allora ho collegato questo adesso. Collegato, sono tutti collegati, ho commutato l'antenna. Prima stavo andando col 430, adesso sto andando col 440. leggermente più spinta. Va bene, riprendi Antonè. Ecco, ok. Tu andare di andare, Nico, ci sei? Senti bene. Cos'hai detto già? Lo senti bene Antonello? Che sono contento, ti ringrazio. E ci suona che 20 watt. Aspetta un attimo. Passo con 50. Hai detto qualcosa Gianni? E vabbè, sono passato da 10 watt a 50. Guarda un po', ti va bene come segnale, buono, sì, ottimo. No, mi va bene a me, c'è anche da watt. Cattino, mi sta fischiando. C'è anche da watt, oh, meno male. Riesco abbastanza bene con questa antenna, sono contento. Mi ha contento di quello che posso fare adesso. Poi di seguito vogliamo un pochettino di migliorare, va? Tutto riprendo subito. Secondo che ti chiamo il limite dopo. Ti sei rimasto qua avanti? Sarà Antonello. Figlia. Ehi, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Basta, eh. No, no, se sapevo no, per la di 5 a bomba. Allora, è tutta quella cosa là, Antonello. Tutto dice, non è strano, perché l'hai visto da lì dentro, arriva tutti i posti con l'antenna, qui c'è il problema del capo, se non è possibile. Adesso c'è un muro che è tutto, anche parte dell'antenna dentro casa tua, dentro casa dentro al circolo, non è tutto, quindi, figura di tu, esce un bel forte con l'antenna, ormai vita così la verità, io pensavo che usciva di meno, ma esce un bel forte. Antonè, però devi considerare questo, che voi siete in città, hai capito? Io sono tutta quanta all'altra parte della periferia, hai capito? Ma che c'entra quello? Guardate Luca, lo sente 9.30 tuo fratello, me. Poco fa, gli altri sono 9.30. Via al monte, Luca da casa tua, a casa sua ci saranno neanche un chilometro lì. Quindi te dovrebbe arrivare minimo 9. E cappa, non lo so, ma per domani vediamo. Vediamo con il test, controlliamo il test se il cavo è in corto oppure c'è qualcosa che non va bene. No, ho detto 9.10, non 9.30, 9.30 è Claudio. Fai 9.10, quello che comunque sia, dentro un muro, come a 4 metri da terra, sottoterra però lì, perché se tu vai a bagno del circolo è 3 metri, cioè è un bel tappato, la verità, per uscire dentro un circolo con una bazooka, mica ce ne vuole uscire a quel segnale lì. Vabbè, ma non c'è il se tu sai dove il circolo è il fratello, che vi ha fatto un circolo, ti rimetti tu, dentro. Non è via Catorchino, via Torino, Antonello. Ma vabbè, via Torino, poi via Torino, c'è sempre Brillante, c'è sempre Cattello, c'è tutto quello di... Non è pure una finestra l'antenna, la finestra è dentro il coso, ma davvero, figurati tu. Tappato, ancora tappato dentro, ma davvero. Vabbè dai, domani vediamo di soddisfare tutto quanto e controllare quel cavo, Antonello. Sì, bisogna tutto fatto, bisogna il cavo, quello che c'è, perché non è possibile una cosa del genere, è molto, veramente molto strano, perché la terra adesso sta lavorando anche parecchio, ma te invece è uscito un accidente, boh, è una cosa molto strana la verità, vabbè, comunque, è tutta esperienza, Sì, vabbè, cazzo, non è strano, lì, anche se è in circolo, però c'ha più recezione, capito, c'ha più tutto quanto, capito, anche se l'ha messa lì, qua, c'è questo cazzo di muro che ho preso e l'ha fatto allo comodo, e ho preso, è il muro di ciocca. Sì, già ho capito, già, non c'è problema, aspetta che ci compro un chiamo, ma che mi chiama? Sì. Pazienza, non mi sente, più c'è proprio bene. Luca, riprendi. Luca vi saluta. Mi siamo due mesi, l'una. Insomma, dormire, perché sentiamo pure, tocca tenere l'audio alto, con le cuffie è un casino, eh. Ma basta un po', io vi ascolto, perché vai, se andiamo pure a dopo, non so, appena alle 10:30, ci siete a dopo, ripeti tu Giuseppe. K, è così. Cosa vuol dire ricato? Ci deve essere qualcosa che in questo caso è strano, veramente strano. O sono i piedi che non stanno facendo bene massa e tutto quanto. Non capisco di qualcosa del cavo, perché non è possibile. Una cosa del genere. Sei riuscito a fare in quelle condizioni così come tu l'hai detto quando dovevi uscire da casa tua. Non lo so. Claudio, riprendi se ci sei. Che cavolo, non c'è, dovrebbe essere il telefono. Nico, ci sei? Non c'è, entrate a chiedendo. Devo dire che c'è gente o Antone. Sì, se intanto si fa gli entrare, se vuole entrare già entra. Tutto ascoltiamo tutti. Non mettiamo la cosa del genere, avete, se non mettiamo la... stupito io, eh. Era un bel forte qua a me. Era una più forte di te, fino a vedo. Ho capito che arriva più forte di me. Antone, ti ho detto che lì, secondo il posto è, c'è più ricezione, capito? C'è Tersà, sei qua, deve venire lui con quella cosa lì e vedi come esce. Non hai capito tu, dentro lì dentro non riuscivi a finire su un posto lì, forse tu non hai capito, cosa è quello? Dentro quel buco dove hai messo l'antenna, se la vede il trano, dici, come cazzo fa uscire una cosa in queste condizioni? Perché non uscirebbe nemmeno. Il discorso è quello. Un conto se la metti vicino a un vetro, quello che trasmette e riceve, ma dentro a un magazzino dove c'è solamente plastica, ferro e burro, non c'è altro, non c'è vetro, non c'è nulla, la cosa cambia. Non lo so, vabbè, domani vediamo come vengo a prenderti, veniamo qua e controlliamo tutto il cavo, a ver se è in corto oppure è capito. Vabbè, non c'è trovato quella. Gioia, per carità. Mi sono fatto una pizza con cipolle, Antonè. Dove per digerirla? Che già la digerisco a potepini. Però solo che la notte ci sono i fuochi d'artificio, cioè, secondo come va. Ah, per tutti, non è niente quella. Avrei passato le maledette a Simona. Sì, ce l'ha ancora, non devi fare così. Detto, io non voglio mettere delle pastiglie, ho detto, la pietitivo piccolino e ti passa tutto, detto, non la metto, non è buona. Ah, la tachipirina. Vabbè. A me mi è passato subito in 15 secondi, ma la sono immaginato. Mamma mia. Se non racconto non ci credo nessuno. Sembrava che sia andato nel sala di notte a 40 gradi e mi avessi bevuto 20 litri di acqua, 20 litri di piscio fuori, non dentro. Che cappa, via, per carità. Ma non so se quella lì la può... la può prendere perché lei è fabbrica. Non so, mi non lo so, non glielo ho chiesto, quindi vedrò lì piano piano. E poi se no ti fai fare dei risciacqui con il whisky, Antonio. Whisky? L'ho fatto io un giorno e non sono svenuto dentro alla stazione. Lui mi scrive, ho bevuto la Mazzutti. Quando ho bevuto la mia, ho iniziato a sentirmi male, a cervello come stavo svenendo da un altro lato, ho accompagnato a casa e ho detto non ce la faccio più, è triste, svenendo. Sono fatto collegato con un paio d'ore e pensavo di morire, la verità. Ma tutto è una cosa, il whisky è un'altra cosa, hai capito? Quello ti è tipo cosa ti pesa tutto quanto la cosa che c'hai, capito? Sì, lo so. Ma quello che lo piglia qua bitta e te lo mette dentro e poi non è che ce l'ha scesso. Il discorso è quello, una volta che tu ce l'hai scesso ti chiama dolore e poi tutti un po' di va fuori. Poi ti passa e stai proprio te per usare dolori, quello già è vero. A me non per fargli passare il dolore, capito? Poi si addormenta e non ci pensa più, capito? Vabbè, così lo so. Ma piano piano già calma. Capito? Scappo. Ma non ce l'ho attento per nessuno. Grote Fabrizio, Vediamo un po', chi c'è rimasto avanti o chi vuole entrare? Avanti, chi vuole entrare, facci compagnia. Rispondo. Non si sente qualche cosa, Tony, Chiaramonti. Cosa? Ma le tutte le attenzioni in Chiaramonti. Secondo me sono importante. Come? Sei poco fa, non adesso. Ho detto, non è entrato neanche già nei Chiaramonti, Antonio. Sei spento già nei Chiaramonti, boh. Ma c'è un così alto, cazzo, un unico. Ma poi ha fatto l'anno, non sta più uscendo, boh. Guardava. Avanti, vuoi farci compagnia? Questa notte. Ti copri, non c'è problema, cambio. La 27 la facciamo anche con le mettere a portata e basta. via, per carità. A certo punto faccio così. Capo, non è che questo motore del PD costa una cazzata. Ci sono autocavalli, disponibili per gli altri, insomma. Andiamo lì e siamo più tranquilli. Caricio a tazza di spread e si lega il microfono e si impicca. E già bisogna fare così a certo punto lì. Quando avete qualcuno un po' imbarcato a far divertirsi, lo facciamo divertire da solo, poi quando ha bisogno dice, oh, non c'è più nessuno in 27, nessuno aiuta più, a farmi compagnia. Ciao Fabri. Ciao Claudio, buonasera, sei andato solo così perché vi ho sentito. Capito, magari ce l'ho fatta rispetto e poi lo sono impiccato col microfono. Se devo va, se non fate il beggio, dai, stavo chiudendo e ti ho sentito, sono entrato a salutarti. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao Fabrizio. Ciao, allora, anche per voi buonasera, là. Dove l'ascolto, là? Capa. Ciao Fabri, saluto anche a te. Chi era l'altro che mi ha salutato basso basso? Ho capito, no? No, so, Ale, un altro mi ha salutato basso basso. E che si può fare adesso? Fabrizio. Capo, avanti. Io ci non sono. Ma come ti sto arrivando lì in via Napoli? Allora, qua c'è Santiago 4, 5, la radio è buona. Capa, E allora, tutto bene? Capa, tutto bene. Potrebbe andare meglio, però potrebbe anche andare peggio. E tu come mi ascolti? Io ti ascolto bene, mi arrivi il segnale e sei con la radio di 5, dai, hai capito? Basta occhio, andava. E tu Antonio, quanto mi ascolti? Attenzione, un pugno. Tonello. Yeah, dimmi. Dai, quanto mi ascolti tu invece? Come mi ascolti? Non ho capito, ma te l'hai chiesto? Ho detto, come mi ascolti? Che basso ti ascolto la verità, un bel basso. E anche qua sei basso, credo. Forse è zona negativa per questa parte. Vabbè dai, continuate che vi ascolto, va. D'accordo, che mi ascolta, c'è anche il problema quella. Vabbè, basso mi ha sentito. E se me lo dico l'altro, tanto quello posso che lui. Questo veramente, Antonio. Se veramente in via Napoli esce veramente basso. E se non lo dico la bazooka, che oggi mi costruisco bazooka e me ne prendo a un certo punto. Non si vede in quelle condizioni che essere, se esce poi lì, perché si possono vedere io. A me esco come si vede sotto un ovviamente di cosa, di pavimento. Certo, guarda, siete qui di cazzo che a costruire quel bazooka, cazzo qua, ci facciamo loro, Antonè. Sono un genne, io non immaginavo una cosa del genere, non l'ho mai immaginato. Sapevo che ci va bene, ma dentro un coso così che ci va da lì dentro la verità, ma manco una telemacchina ce la fa. Figurati, piattando in barca, cosa dovrebbe uscire, dove arrivare. In barca già esce forte, a Muglia, se ce l'hai dentro si imbarca. Alla Muglia. Ho detto quello, secondo dove è piazzata, fa anche dietro la Spagna e compagnia bella. Lo so. E ti sto ascoltando con le cuffie, insomma, Fortuna quella, hai visto? Ci vuole canna sulle cose, canna. Sì, bisogna fare le cose bene, fatte bene. E tutto quanto, e vedi come rende la cosa, vedi? Le abbiamo comprati i piedi nuovi, il capo nuovo, e vedi come cazzo, come rendimento. Per piede, si mette il capo e c'è come 10 quota di stiro, ci stiro. Di andare a canizzata con il capo elettrico. Oh, allucinante, cazzo. Dietro di quella va bene, nel bunker. Chiama del capo e gli risponde subito. Ma che sei? Scoop è sparito. Attore. Dimmi, sono qua. E quel cavo che io c'ho dentro qua, dentro quella stanza, glielo tiro tutto quanto fuori e lo metto sulle tegole, vediamo se cambia qualcosa. Non fare nulla adesso, non fare tutto niente, quando lo saliamo per la tua, perché al momento abbiamo tutto quanto il cavo, tutto, dal baracchino fino a fuori. E domani mattina lo facciamo. Tutto lo stacchiamo, togliamo tutto quanto, pezzo per pezzo. E scappa. Oi, per carità. Adesso faccio una spatolata, vedi chi c'è, ma non credo ci sia nessuno. E poi un po', controlla se c'è qualcuno, ma mi sembra di no. Avanti, prego. Non c'è nessuno, no. Tutti brutti, insomma. Avanti, prego. Non so Domenico, io sono Guido la Vespa, tu chi sei? Non c'è Domenico. Posso, non posso, non ce l'ho un canale io, ho solamente questo di canale. Avanti Giuseppe. E cazzo, chi era Ale? Tu mi sembra facendo di Chiaramonte. Ah, già Chiaramonte, e cazzo, chi lo c'è? Chi l'ha più sentita quello lì? Questi tanti anni vanno sotto gli altri, la verità. Ma di una cosa, ma già nel Chiaramonte non voleva anche in macchina? Sì, andava vicino a casa sua, in collina a Murmurare, adesso è a casa sua e quindi arriva basso. Allora ci avrà problemi di antenna lui, anche quello, no? Esatto, sì. Oh, ma lo so. Per carità. Peccia. Cos'è la TV quanto lei? Ma c'è una televisione, mi guardo un bel film e poi mi addormento. È così. Vabbè, ci vediamo domani allora, buona notte in televisione e ci vediamo domani mattina. Alle 10 sono a casa tua io, Antonio, eh? E gliene accorto. Un pugno! Chi chiama? Avanti! Cosa stai in casa scombinando, caruffa dal sogo? Che sono qua già, ti preoccupare. Oh Giuseppe, ti come chiudere, c'è tuo fratello. Amico, Sì, lo senti. Mandalo avanti, Valerio. Giuseppe, no, che è tranquillo. Vedi, ha fatto il segone a coricarsi, così almeno non sta sveglio. Giuseppe, senti, tu hai fatto un secondo, così ti curi che stai meglio. Scappa, vedi che lì, ma gente, vedi se c'è gente, o no? Nessuno, non ti preoccupare, se non sarebbe stato a baracchino. Nessuno c'è un nemico. Come sta uscendo adesso? Una bomba si mette qualcosa, va. Se la metti fuori ti sto dicendo che sei un demonio. Ma dentro quel buco non uscirebbe mai con la tele di macchina, la verità. Cazzo Giuseppe, non riusciva a offrire dal poggiolo, cazzo. Ti sto dicendo che la porta te la casa con l'antenna. Così come adesso te la porti a casa, la gente lì. E vediamo come esce stanotte, se sto dicendo che tu esci una bomba esce. Magari stanotte no, che alle 3 smonto da qua, come faccio? Cazzo, mi arrestano subito. Ah, ma cosa ti arresta? Che non ti subito nessuno, io fuori dimmi. Appena ci vai vicino in circolo e portato a casa la roba e così niente la casa tua, non ti arresta nessuno. A parte non disturba nessuno ormai, le cose sono diverse. Le frequenze sono cambiate, quindi non disturbi più la televisione, a tutti dimmi. Ma Giuseppe, coricato c'è? No, c'è qua Giuseppe, non ti preoccupare. Giuseppe, lo senti a tuo fratello? Già lo sento adesso. sentito adesso che ha risposto. Però lui a me proprio non mi prende, no? Avanti, polpo 1, polpo 2, chi comanda qua? Avanti, polpo 1, polpo 2, chi comanda qua? Avanti. Se sei un polpo, che cazzo faccio io a risponderti? Io non sono un polpo. Ah, tu sei un polpo, come fa a risponderti? Scusa. Cos'è? Se sei un polpo, come fa a risponderti? Io sto facendo una cosa, Antonio, se noi quella cosa lì la mettiamo sopra quel tetto che c'è sopra di fronte al circo, cioè... Ma ecco quanto spara. Non so che spara parecchio anche. Mi sembra un piovrone da sotto, si sente un fifo. Alessio. Via. C'è ancora qualche portante? E adesso c'era, due minuti fa c'era. Adesso non c'è più. Io ti piovrone. Piovrone. Giuse. Polipo, non ti sento. Oi. Cosa di lui? Che? È venuta. Portante, Giuse. Lo so, c'è la portante, ma... c'è qualcuno che si sta divertendo. Facciamo fare. Per carità. Ti di cazzo, sempre il portante. Ciao, Bomboli. Polipo! Puoi chiamarlo tu, Antonio, a mio fratello, Nico, se ti sente. Adesso un po' ti sento, Polipo. E anch'io già ti sento un po' adesso, Sentite, sì, Polpito, che due polpi, uno troppo grande e l'altro troppo piccolo. E a me, Pomponio, dici che è il polpo grande. Lui è poco grande, io sono Moscardino. Ah, Antonè. Appunto. Senti tu che è Moscardino. Poco grande. Pensa che è Moscardino, lo conto subito. E dove conto subito, hai sentito già? Mi stai vedendo, puzzinoso. Che maledizione. Mi stanno chiamando, ci sentiamo dopo. Scappa. D'accordo. Cazzo, guarda che stava arrivando un segnale di due, con una radio di due. Quando vanno per 10, di due di due. Sta arrivando per 10. Non è. C'è anche, non c'è neanche il cuore, per quello che sta arrivando qua. Due volte è arrivato fratello, la verità. Cazzo, dentro un coso. Un buco, sai, dai. Attenzione, Bombolino, ci sei. Antonio Bombolino, se copi canale 10, cambio. Oi, oi, oi. Sì, brilli, oi, oi, oi. Certo cazzo, se l'avrebbe messo in macchina quella cosa di quel bazooka, avrebbe sparato un bel più bene, no? Se l'avete in macchina, ma se in macchina sì, l'ho detto io a Claudio un giorno. Gli ho detto, fai una cosa, il problema è come se le bazooka in macchina tua. Vediamo come esce lunga, non esce lunga. Vieni a vedere, Antonio. Oh, via, yeah. Vabbè, dai. Che ora si è fatta, boh? L'ora è Pavesini. Che ora è, Antonio? Avanti. Avanti. Avanti. Sul 10, chi è? L'ultimo. Tu? Avanti, boh. Io. Abbiamo una cosa, tre. Quasi, cazzo. dobbiamo arrotita, io. Guarda, quando vuoi. Signor, ce ne stanno. Ci vediamo d'accordo. Mettiamo un circolo per i fatti nostri, cuciniamo e ce l'abbiamo detto, vediamo tutto domenica, mi quando è chiuso. Ma io va a vedere lì dentro, non puoi cucinare dentro il circolo. Fuori, fuori cuciniamo, cosa ti la fotte? Usiamo fuori e poi il montare dentro. Sì, dobbiamo organizzare con il camionatico se ce la può fare un piccolo spuntino. Allora, con la pezza elettrica facciamo tutto. Con la pezza elettrica cuciniamo fuori e poi solo per noi e basta. Organizziamo un po' di pezzini di cavallo, calanovalie, bracciole, pancetta e compagnia bella. Non ci bisogna di cavallo, non se me ne frega, non se me ne frega cavallo, cavalli ne abbiamo tanti qua. Maglietto facciamo, quindi maiale, pancetta, quello che è, bistecche, non costa niente. Io cucino fuori. Se dentro al circolo si entra la roba, ma perché il circolo sta chiuso, per ferie. Dopo i giorni siamo a posto. E capa. Tutti ci bimbettiamo, la linea c'entra senza. E vabbè, tanto domani facciamo quella roba là e prima facciamo, dobbiamo andare a trovare quella roba lì per la macchina, poi veniamo qua e facciamo quel lavoro. E infatti, a tutto passello. Luca, ci sei? Tutto è scritto. Tutti morti. Migliaia. Sono meravigliato. Non è possibile, ci sto pensando. Quello è il destino, mi ha fracassato il destino, ho detto no, tu non vieni in la casa tua, devi uscire in basso. E qua qua mi ha frastimato, Antonio. Ci pensi, non è che ci pensi, una cosa del genere. Se non è possibile, dentro un coso, una cameretta stretta di 2 metri per 2 metri, no? E come ti posso dire, dentro un circo entrando 10 metri che c'è un numero grosso con qualcosa e esce lo stesso, non è possibile, ma non è che c'è più niente addirittura. E poi c'è le cose che fa la fonte, la tappa di ferro che c'è lì, ripiano in ferro, capito, per quello che potrebbe dare anche potenza lì, capito. Se non c'è uscita, non c'è pensato, non c'è niente, non fa un buco e mi, entra un buco di cemento armato. Quanto noi si vede sempre per di guerra. Cazzo, allucinante. Fuori cavolo, se vai a contare non ci crede nessuno. Non ci crede nessuno, tutto il cielo. Sì, è vero, ma non ci crede vero. Non ci crede nessuno, è una cosa tra dal mese prossimo incominciamo a costruire bazooka e incominciamo a vendere quei bazooka, hai capito? Non ho mai visto una cosa del genere, mai l'ho vista. Va bene che a casa tua già sparava bene, perché arrivavi bene, però lì, essendo più basso, si sente ancora più forte, capito? Allora, io ho notato una Bibbia che in pratica tanto bello con campo l'attiva è al monte, mica c'è roba da passare per il monte, figura di tu, e poi va anche al monte. Ehi, va bene, dal monte al circolo e lì all'aria quanto ci sarà? Un chilometro? Un chilometro? Di bimine. Non fare i conti fuori, fai i conti dentro. Il discorso cambia, dentro un coso. Se lo vedo non ci credo nessuno, perché non è possibile. Eh beh. giustamente. Cosa vuol dire il cattore? C'è la cazzo verde a cazzo di calcio a cazzo frastimata, frastimata a cazzo e guppitata la lampada lo comodi. Cosa ne so io? È l'unica a fare quella cosa tanto, trovarli le staffe e piantare una bella ringo e poi vedi come esco. E speriamo. Te lo faccio vedere io come cazzo sparo, come arrivo lì a quel bazooka, cosa ricombino io. E spiegami allora perché non è uscito il bazooka a casa tua. Sei dentro un buco di 3 metri e ci sono tutti i comuni che quella volta riesce a uscire con chiunque. E beh, veramente strano, come la verità, che non è possibile. È un miracolo, sembra che sia un miracolo uscire in rallento, la verità. Eppure la massa non ce l'è. Quindi non c'è niente. È chiuso, non ci sono finestre, non c'è niente. È chiuso, ho detto quanto muro è chiuso. Non lo so. Comunque, meglio così, Antonio, meglio così, almeno già. C'è un apparato che esce abbastanza forte. E quello sì, sono veramente contento, la verità, perché esce bene l'apparecchio. Ma bombe, capito come esce? Quando ho detto, come esce? Un apparecchio vecchio, il macalibito è rimasto. Ma esce forte anche l'altro, però non c'ha la spinta che c'aveva quello lì, quel microfono lì, capito? Ma quel microfono, quel microfono, quello è la capsula Italia più 3, ancora l'hai capito, con l'amplificazione, il circuito amplificato delle munizioni, quindi che sono quasi uguali, si assomigliano parecchio, non si sono diversi, troppo pompe, visto è, quanto pompa. Certo se pompa. Già lo sapevo che pompa, ma quando ce l'avevo io qua, figurati che sono pompa lì. E per quello che te l'ho dato, non per l'altra. Perché è un po' convento, tutta la famiglia, è un'altra capsula. Non male, ve la vazzi. E vabbè, Antonio. Se noi avremmo messo quella capsula qua dentro a questo specie di microfono, la tavola avrebbe ancora più pompato di più. No, non si fa niente quello, ci aspetta, se vi penso una cosa. No. Cosa sto dicendo io? Non lo so. No, non è che è già buona questa modulazione, però per me è una roba che è del capo, e basta, non me la toglie nessuno, è come hai detto tu, il capo è in corto e dobbiamo fare tutto quel lavoro lì. Tutto quello. Se tu senti la modulazione del tuo fratello, da casa mia, ti metti una in testa, guarda. Ma c'è una radio veramente, veramente forte, non c'è nessuno così. È rimasto il dito Claudio, fino a di tu. E tu col dito come fai? Col dito fuoco che hai detto tu. È rimasto il dito, rimasto. Che cappa, già lo so. Beh. Già era forte quando uscivo in macchina, figurati adesso, con quella roba lì. Cioè sul microfono con la capsula che ti ho dato io, visto vai? Sei lavorato parecchio. Ti ho raccolto quel microfono che è un buon microfono, spero che tu non dia nessuno. È veramente bello. E quello sì che è un microfono che è pizzica, non come gli altri, che non servono a niente. No, quello sta tranquillo, non lo dà nessuno perché lo utilizza in barca e guai a toccarglielo. E se non gli dai una cosa a mio fratello è come di togliere un pezzo del cuore, capito? Appunto per quello, quindi, che va bene. Ehi, troia, per carità. Oh. Dormi non ti sai, no? Mi è venendo la piocca, Antone. Che sono? Le 11:20. Già tardi allora. Adesso mi conico anch'io. Ci devo venire a tiro? Ti dico buonanotte. E ci devo venire a tiro. Sì, domani mattina alle 10 sono a casa tua. D'accordo, domani. Ciao, buonanotte, buon tutto. Ciao, buonanotte.